Perfetta Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Sono immagini che stringono il cuore e strapazzano l'anima. Da padre, vorrei dirlo, prima ancora che da primo ministro. Si riferisce, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Renzi, il Presidente del Consiglio, naturalmente a quella immagine davvero scioccante che ha fatto il giro del mondo, che è stata pubblicata da gran parte dei media, dei quotidiani, dei siti, di questo bimbo siriano riverso morto su una spiaggia a Bodrum in Turchia. E diciamo che è un argomento questo che naturalmente ha scioccato tutti e ha diviso anche, si è aperto un dibattito. È stato giusto pubblicare questa immagine perché divide il dibattito sia l'opinione pubblica che l'informazione. È stato giusto pubblicarla perché in questo modo ha scosso le coscienze collettive, le coscienze mondiali, oppure è stato un ledere la dignità, la riservatezza della vita, della morte di questo bambino e quindi della sua famiglia? Cosa ne pensate? È stato efficace pubblicarla perché in questo modo qualcosa si è smosso, qualcosa si sta muovendo, adesso non si capisce se proprio in conseguenza di questo terribile fatto oppure per altri motivi, oppure secondo voi è stata offensiva, è andata a violare la privacy di un momento così terribile per la famiglia stessa del bambino oltre che per lui? 349-238-6666 è il numero per i messaggi, 349-238-6666, per dire cosa ne pensate, siete favorevoli, ritenete opportuna questa pubblicazione oppure no, e anche naturalmente sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Naturalmente torneremo ancora, è un tema, ve lo dico sempre ormai da tanto tempo, che su cui andremo avanti ancora per mesi, anche se vi dicevo qualcosa forse non si troverà una soluzione, ma qualcuno un pochino si sta svegliando forse. E poi c'è anche da dire, c'è questa novità, è ufficiale, Marino è rientrato in Italia, è a Roma, diverse persone l'hanno visto, qualcuno l'ha anche contestato, poi ci collegheremo con Roma, capiremo come è andato questo rientro e anche questa manifestazione a cui ha partecipato oggi contro le mafie. Ci occuperemo anche di Mostra del Cinema di Venezia, siamo alla seconda serata, un film che ha ricevuto molti applausi su lo scandalo dei preti pedofili a Boston. Poi c'è il calcio, la nazionale, sapete, in campo con Malta, insomma un sacco di argomenti, quindi voi appiccicatevi a Effetto Notte a Radio 24 sino alle 22, così per qualsiasi cosa stiate facendo. 349-238-6666 per le vostre opinioni o come sempre lì comodamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte, la quale potete aderire come sempre senza indugio. Nel frattempo cosa faccio? Come sempre vi riassumo la giornata. L'esodo dei migranti, asse tra Germania e Francia per quote obbligatorie. Per Renzi non basta commuoversi, bisogna muoversi. Ancora tensioni in Ungheria. Intanto la Gran Bretagna annuncia che accoglierà migliaia di migranti siriani. Economia, allarme di Draghi sulla ripresa è lenta, giù le stime del prodotto interno lordo dell'Eurozona. Pesa su questo l'indebolimento per le prospettive dell'economia cinese, ma le borse chiudono bene. Cina, grande parata militare di Pechino, a 70 anni dalla vittoria nella seconda guerra mondiale, il presidente Xi rassicura i vicini tagliando 3.000 soldati, un messaggio comunque di forza verso gli Stati Uniti, presente alla sfilata anche Putin. Cinema alla Mostra di Venezia, applausi per Spotlight, film denuncia sui preti pedofili della chiesa di Boston. Calcio in campo, la nazionale contro Malta. Ovviamente ripartiamo dal tema prioritario, quello dell'immigrazione. Intanto c'è da dire che una grossa novità di oggi, sembra appunto una novità, non è ancora ufficializzata, ma ne parlava il Guardian, quotidiano britannico, sembra che la Gran Bretagna abbia deciso di accogliere migliaia di rifugiati siriani in più direttamente dai campi profughi dell'ONU, quanto si legge appunto sul sito online del quotidiano Guardian, che dice che Cameron, il primo ministro britannico, lo dovrebbe annunciare ufficialmente a breve. Per il momento non mi sembra di vedere questa ufficializzazione, è probabile che arrivi in serata. Intanto Francia e Germania annunciano l'iniziativa comune per la ripartizione dei migranti nei vari paesi membri dell'Unione Europea e Renzi, nell'incontro bilaterale che ha avuto col premier di Malta, dice è dovere dell'Europa dare una risposta comune. Un meccanismo obbligatorio di quote di migranti, Angela Merkel e François Hollande lo proporranno all'Unione Europea per risolvere la tragedia dei profughi. Una linea in accordo con le richieste dell'Italia, il premier Matteo Renzi insiste sul diritto d'asilo europeo e su una strategia globale. Io vorrei che l'Europa fosse capace di muoversi, non soltanto di commuoversi. E la risposta deve essere una risposta ampia, globale e comprensiva. Intanto la Commissione europea sta studiando l'opt-out, ovvero la possibilità per i paesi che rifiutano il collocamento dei migranti di esentarsi attraverso il pagamento di sanzioni. Sono 120.000 le persone da ridistribuire all'interno dell'Unione, in aggiunta ai 40.000 pianificati per Italia e Grecia. Ed è scontro aperto ormai tra Germania ed Ungheria. La cancelliera Angela Merkel risponde al premier ungherese Viktor Orbán, per il quale il problema dei migranti è solo tedesco, perché tutti vogliono andare in Germania. Per la cancelliera la Germania fa moralmente e giuridicamente ciò che è dovuto, né più né meno. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ed è sempre difficile la situazione nella principale stazione ferroviaria di Budapest, con la quale poi ci collegheremo nella seconda parte di Effetto Notte. Ci sono state purtroppo ancora vittime oggi in Italia, 3 migranti. Altre 6 vittime dell'immigrazione. Sono 2 uomini e 4 donne, i cui corpi senza vita sono stati fatti sbarcare in mattinata nel porto di Cagliari della nave norvegese Siem Pilot, che portava con sé anche 781 migranti salvati al largo delle coste della Libia. Tra loro 11 donne incinte e 20 minori. Provengono per la gran parte dalla Nigeria, ma anche da altri paesi dell'Africa subsahariana. Così sulla macchina dell'accoglienza dopo lo sbarco, l'assessore regionale con delega alla protezione civile, Donatella Spano. Andando tutto perfettamente, in estremo ordine. Volontari hanno predisposto il campo e quindi stanno operando secondo il protocollo concordato. Intanto la diocesi di Milano annuncia un potenziamento della rete di strutture di accoglienza gestite dalle sue cooperative e associazioni, che porterà quasi 1.000 i posti per i profughi. Il cardinale Angelo Scola ha chiesto inoltre alle parrocchie di mettere a disposizione piccoli spazi per l'accoglienza diffusa. L'esperienza diretta sul territorio di Don Dubini, parroco responsabile di Caritas nella città di Lecco. Questa accoglienza diffusa per piccoli nuclei, secondo noi, è la scommessa vincente anche per il futuro. Non rende la presenza dei profughi un problema, ma diventano anche una risorsa. Non la pensa così il sindaco leghista di Bondeno di Ferrara, Fabio Bergamini, il quale ha dichiarato che fisserà IMU e TASI ai livelli più alti per chi accoglierà altri profughi, oltre ai 20 già ospitati in parrocchia. Questo è un paese di terremotati, ha spiegato il sindaco. Non possiamo dilapidare risorse per i clandestini. Roberta Pellegatta, Radio 24. Il Sole 24 Ore. E vedo adesso un'agenzia che riguarda un'agenzia di questi istanti, che riguarda la famiglia del bambino di cui è stata diffusa l'immagine di lui riverso su una spiaggia turca. La storia è che i genitori avevano chiesto alla famiglia di essere accolti in Canada già da tempo. Sembra che fosse stato rifiutato con questa cosa. Il Canada dice oggi ufficialmente che il Canada ha oggi negato di aver ricevuto una richiesta di asilo politico da parte del padre del piccolo Aylan, il bimbo siriano morto annegato e trovato su una spiaggia in Turchia. Quindi il Canada nega di aver mai ricevuto una richiesta d'asilo. Vabbè, non sappiamo se è il solito rimpallo di responsabilità. Per il momento questa però è la risposta ufficiale del Canada. Cambiamo per il momento argomento, mentre stanno arrivando i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666 sull'opportunità o meno di aver pubblicato questa immagine scioccante. Parliamo di economia nel frattempo con la Banca Centrale Europea, che rivede a ribasso la crescita e l'inflazione. Mario Draghi ha lanciato un messaggio chiaro: la Banca Centrale Europea ha la volontà, la preparazione, la capacità di agire con nuovi stimoli monetari se l'economia dell'Eurozona dovesse peggiorare ancora. Le turbulenze di queste ultime settimane, segnate soprattutto dalla frenata della Cina e delle altre economie emergenti e dal nuovo calo del prezzo del petrolio, hanno costretto la BCE ad ammettere nelle sue nuove previsioni che crescita e inflazione saranno più basse di quanto previsto finora, anzi l'inflazione potrebbe nuovamente scivolare sotto zero nei prossimi mesi. Per il momento Draghi si limita a tenere la situazione sotto stretto controllo, ma se il peggioramento dovesse rivelarsi più che temporaneo, allora la BCE interverrà di nuovo. Il suo presidente ha evitato di fornire dettagli, ma è possibile che il programma di stimolo in corso da 6 mesi, il cosiddetto QE, venga allungato oltre la scadenza del settembre 2016 o che gli acquisti di titoli, oggi 60 miliardi di euro al mese, vengano aumentati. Draghi si tiene le mani libere, ma intanto domani e sabato andrà ad Ankara alla riunione del G20 per cercare di capire dalle autorità di Pechino come intendano far fronte al brusco rallentamento dell'economia cinese, che può far crollare l'export europeo e minare la fiducia dei mercati, come si è visto sulle borse mondiali quest'estate. Altrimenti toccherà ancora una volta alla BCE. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. Oggi in ogni caso le borse sono andate piuttosto bene, ancora una volta l'effetto Draghi, la Banca Centrale Europea è pronta a potenziare il quantitative easing, questa emissione di denaro, gli investitori acquistano azioni e titoli di Stato nell'area euro. A fine seduta Milano registra quindi un balzo del 2,62% dopo aver sfiorato il 3%, bene anche Francoforte con l'indice DAX che guadagna il 2,70%, Parigi il 2,29%, bene anche Londra con un progresso di quasi il 2%. E migliora il potere d'acquisto degli italiani, nel 2015 è cresciuto dell'1,5%, lo dice il rapporto COP 2015 che fotografa ogni anno i consumi degli italiani. Dall'inizio della crisi le famiglie italiane hanno perso 2.600 euro di reddito disponibile, ma quest'anno ne hanno recuperati 220. Per COP siamo di fronte a una ripresa lenta, anomala, ma pur sempre insomma una ripresa. A Roma, nel quartiere Tuscolano, c'è stata, a proposito del rientro diciamo di Marino, una manifestazione per la legalità contro le mafie a cui ha partecipato per l'appunto anche il sindaco. Pare ci siano state non poche contestazioni e poi, vi dicevo, ci collegheremo direttamente con Roma per farci raccontare com'è andata. Spostiamoci all'estero. La Cina mostra i muscoli in una parata militare, trema certo per i mercati che non vanno granché. È stata un'esibizione di forza, un messaggio nei confronti degli Stati Uniti, così è stata letta, era presente anche Putin. Questo a 70 anni dalla vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Il presidente Xi rassicura i vicini tagliando 300.000 soldati. E poi in Siria, è arrivata questa notizia molto particolare. La provincia di Damasco dell'ISIS ha pubblicato delle foto in cui afferma di aver siglato un patto per la protezione dei cristiani, cosa che pare piuttosto strana, nella città siriana di Al-Karitayan. Lo riferisce il sito precisando che l'ISIS ha pubblicato anche una copia di questo contratto di accordo per la protezione dei cristiani. Comunque torniamo in Italia con la cronaca dei coniugi uccisi nel Catanese. Resta in carcere Mamadou Camara, il cittadino ivoriano di 18 anni, ospite del carcere di Mineo, accusato dell'omicidio appunto dei due coniugi, Vincenzo Solano di 68 anni e della moglie Mercedes Ibanez di 70 anni, uccisi nella loro villa a Palagonia nel Catanese. La GIP del Tribunale di Caltagirone ha convalidato il fermo. L'ivoriano, a cui la procura contesta il reato di duplice omicidio e rapina aggravata, resta rinchiuso nel carcere di Caltagirone e domani alle 10 il procuratore, sempre di Caltagirone, terrà una conferenza stampa. C'è una novità a Bologna per quanto riguarda le coppie gay. A partire da quest'anno, a Bologna, i genitori dello stesso sesso potranno autocertificare la loro situazione di famiglia per gestire alcuni aspetti della vita scolastica dei figli, come firmare per esempio le autorizzazioni per le gite, ritirare i bambini a scuola o parlare coi maestri. È una novità che è emersa ieri durante la festa dell'unità a Bologna, dove ha parlato il sindaco Merola. E poi per il cinema, alla mostra di Venezia, applausi per Spotlight, un film denuncia sui preti della chiesa di Boston, con un grande cast questo film. Mille i casi verificati di bambini abusati. E poi ci collegheremo direttamente con Venezia, ci faremo raccontare di questa serata. Ed è morto, tra l'altro, per quanto riguarda il cinema, Dean Jones, che era il pilota, lo ricorderete, del Maggiolino Tutto Matto, attore poi di tanti film di Walt Disney. Per chiudere il calcio, vediamo cosa sta combinando, mi pare uno 0-0 quello dell'Italia contro Malta, è vero Dario Ricci? Benissimo, benissimo Roberta, ti vedo sul pezzo, come si dice. Italia contro Malta a Firenze è la prima delle due sfide che ci aspettano in questi giorni sulla strada di Euro 2016. Quindi per gli europei, qualificazioni europee. Sì, qualificazioni europee. Domenica affrontiamo a Palermo la Bulgaria. Da segnalare che la gara si è aperta con un minuto di silenzio chiesta oggi dalla Federcalcio proprio per le vittime delle tragedie del Mediterraneo che stiamo raccontando in questi giorni. Finora 0-0 per quanto riguarda l'aspetto calcistico. Si è rivista una punizione di Pirlo, ci mancava un po' perché ormai Pirlo gioca a New York e soprattutto i tifosi juventini l'hanno vista con un po' di malinconia. Ci stiamo provando, ma Malta chiaramente si chiude. Da segnalare anche nel nostro girone che la Croazia è stata bloccata sullo 0-0 in Azerbaijan e quindi oggi vincendo potremmo anche andare al primo posto. Stiamo niente a vedere. Proprio di meno. Senti, c'è una notizia che mi traduci. Dimmi. Calcio, collegio, garanzia, Juve, Tribuna Sud chiusa. Penso che sia relativa al ricorso della Juventus rispetto alla chiusura della curva bianconera per quanto era accaduto nel derby di Torino, perché la Juventus era stata sanzionata prima con due giornate, poi ridotte ad uno, ma anche rispetto a questo ricorso, rispetto a questa sanzione diminuita, la Juventus aveva fatto ricorso. Quindi è stato respinto il ricorso, è stato respinto e sconterà il, ricorso. Il provvedimento il prossimo turno in casa. Molto bene. Sì. E anche con questo quindi possiamo salutarci, grazie Dario Ricci, sentiamo sempre sul dopo, pezzo, lui in realtà dopo. Ci sentiamo dopo perché dobbiamo sapere se qui succede qualcosa tra la nazionale italiana e Malta. Intanto vedo che arrivano i vostri messaggi prima di aggiornare chi sta viaggiando a proposito dell'opportunità o meno questo dibattito che sta dividendo sia l'opinione pubblica che l'informazione di pubblicare l'immagine scioccante del bimbo siriano riverso su una spiaggia turca. Dice un'ascoltatrice o ascoltatore: una delle colpe dell'ISIS questa da cui il bimbo scappava. E poi invece per Gianluca di Vittorio Veneto: è opportuna, adesso tutti i buonisti italiani hanno l'obbligo morale di ospitare gratis i migranti a casa propria. Non si capisce se è ironico Gianluca, ma mi sembra tale. Don Daniele: quindi un prete e la morte è una realtà, nasconderla è un'ipocrisia, farne spettacolo per scopi di profitto è disonestà. 349-238-6666, quindi i vostri messaggi qui e anche la pagina Facebook di Effetto Note. I bambini sotto le bombe degli Stati Uniti non le fate vedere, però siete di parte. La radio non fa vedere niente in realtà, caro ascoltatore, non si firma, vabbè, forse vuol dire gli altri media. In questo caso sono questioni certo diverse, quando bombardano in Afghanistan, in Libia o in Siria o in Iraq sicuramente muoiono anche bambini sotto bombe americane. E poi è vergognoso, un minimo di dignità almeno da morti, soprattutto se si è bambini. Lo stesso discorso vale per la giornalista americana della scorsa settimana e molti altri messaggi che leggerò naturalmente con un po' di tempo dopo. Adesso sentiamo se ci sono aggiornamenti per chi viaggia, poi entriamo nel cuore della questione ancora dell'immigrazione e poi con tutti gli altri temi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci qui, ancora i vostri messaggi, adesso li leggo sulla pagina Facebook di Effetto Notte, vediamo se si sblocca questa pagina, ogni tanto ci sono diciamo delle interruzioni tecnologiche, dei piccoli imprevisti, eccole qua. Intanto vi ricordo quali sono le notizie principali finché si sblocca la pagina. Voi continuate a scrivere sia al 349-238-6666 sia sulla pagina del programma a proposito dell'opportunità o meno, secondo il vostro punto di vista, la vostra sensibilità personale, di pubblicare, come è stato fatto da tanti media nel mondo, questa immagine del bimbo morto sulla spiaggia turca. Allora, le notizie principali. Asse tra Merkel e Hollande a proposito di quote obbligatorie di immigrati per i paesi europei, altrimenti ci sarebbero delle sanzioni a chi rifiuta. Intanto è stato deciso che ci saranno 120 ricollocamenti in più. Situazione sempre difficile nel frattempo a Budapest, assalto ai treni da parte dei migranti, nella stazione nasce una bimba e intanto appunto è sempre in primissimo piano la storia del bambino Ilan che fuggiva da Kobane, annegati anche il fratellino e la madre. Allarme Draghi sulla ripresa è lenta nell'eurozona e giù le stime del PIL, e questo perché anche insomma vista le prospettive dell'economia cinese che hanno visto un serio indebolimento. E poi il Papa dall'ottico in centro per cambiare gli occhiali, folla fuori dal negozio in centro a Roma a due passi da Piazza di Spagna. E poi Marino, un rientro blindato dalle ferie, sapete che è rientrato oggi, vi dicevo cacceremo la mafia, ha detto oggi a un sit-in contro le mafie e poi pare che sia stato contestato, ma poi ci collegheremo con Roma. Cina mostra i muscoli in parata, pare che sia stato un messaggio di forza nei confronti degli Stati Uniti. Comunque festeggiavano i 70 anni questa grande parata militare dalla vittoria nella seconda guerra mondiale. Si parla anche di un eccezionale trapianto di rene da sveglio, la prima volta in Italia è avvenuto alle Molinette di Torino. E poi Venezia, applausi per Spotlight, il film denuncia sui preti pedofili di Boston. L'Europa si deve muovere, perché di leader europei che si sono commossi ne abbiamo avuti già troppi. Di leader europei che si sono mossi, qualcuno in meno. Quindi bisogna muoversi, è ora di muoversi, ma al di là delle parole, cosa si sta facendo davvero in Europa mentre continua questo esodo storico di migranti, continuano a ripetersi anche le tragedie e si continua a dire da tempo che sono necessarie, anche ieri ne parlavamo, un'azione comune, regole condivise, controlli interforze e un'accoglienza solidale, una redistribuzione più equa di immigrati. Diciamo che a parte le varie azioni di chiusura di alcuni stati, qualcosa forse timidamente si sta muovendo tra incontri bilaterali. Oggi per esempio il Presidente della Commissione Europea Juncker si è incontrato col Presidente ungherese Orban, anche se non sembra che le cose siano andate benissimo. Poi documenti trilaterali anche ci sono stati ieri di Italia, Francia e Germania per sollecitare ulteriormente l'Unione Europea sulla questione dell'emergenza immigrazione e anche per sottolineare l'assoluta necessità di una redistribuzione più equa delle quote di migranti in tutti i paesi dell'Unione Europea. E poi la grossa novità di oggi, sempre vi dicevo all'inizio, in realtà riportata come anticipazione dal giornale britannico Guardian, è che la Gran Bretagna accoglierà migliaia di profughi in più, pare migliaia di rifugiati siriani direttamente dai campi profughi dell'ONU. Inoltre la Commissione Europea sta lavorando, lo sentivate prima, sulla possibilità di quote di migranti obbligatorie per i paesi europei, con la possibilità di alcuni paesi di rifiutarsi, però pagando, quindi essendo sanzionati. Intanto però, come si sta evolvendo la situazione nella principale stazione di Budapest, capitale ungherese, epicentro in questi giorni del dramma dei profughi che cercano di salire sui treni, di partire verso Austria e Germania? Lo chiediamo alla nostra inviata a Budapest, Valentina Furlanetto. Ciao Valentina. Ciao Roberta, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, io sono a Kelati, ormai famigerata stazione internazionale dei treni di Budapest. La situazione in questo momento è abbastanza tranquilla, come sentite ci sono molti bambini che iniziano a dormire, le persone iniziano a covacciarsi letteralmente per terra sotto coperte che vengono distribuite poco, a dir la verità, ma dai volontari, quelli che ci sono e quelli che si stanno davvero dando molto da fare. E fino a poco fa però c'era una specie di dimostrazione pacifica, un sit-in pacifico con delle manifestazioni anche abbastanza creative da parte di questi profughi siriani, che hanno deciso di alzare dei cartelli dove c'era scritto l'Ungheria è la Guantanamo dei bambini, dove sono le Nazioni Unite. Tantissimi bambini si sono messi per terra incinando praticamente di essere morti, facendo vedere proprio quale poteva essere il loro destino in Siria se fossero rimasti lì. È stata una giornata di tensioni ovviamente alla stazione. È iniziata questa mattina, Roberta, con, come sapete, la riapertura della stazione, che era rimasta chiusa per due giorni, e la felicità dei profughi che hanno iniziato ad assaltare i treni. C'erano dei treni stipati fino all'inverosimile di gente, ti assicuro che entrarci era molto pesante, anche era difficile respirare. Ecco, io ho provato, sono salita e devo dire la situazione è di degrado umano molto forte. Quello che non avevano capito i migranti è che due treni che sono partiti questa mattina non andavano al di fuori dell'Ungheria come loro speravano, quindi in Germania, ma a Győr, che è una città al confine ovest dell'Ungheria verso l'Austria. Il fatto è che poi questi treni sono stati fermati a Bixre, dove c'è un campo profughi, e è stato chiesto ai profughi di scendere. Poco fa ho saputo proprio da Bixre, da una fonte lì, che sono astragliati all'interno del treno i migranti ancora a Bixre, non vogliono proprio uscire, hanno difficoltà ovviamente ad avere approvvigionamenti di acqua. Gli agenti che sono lì, la polizia sorveglia la situazione. C'è stato anche una situazione molto pesante oggi pomeriggio sempre lì a Brixe, perché una donna con un neonato proprio che non voleva scendere è stata portata giù a forza, si è distesa sui binari della stazione per far capire che non si muoveva da lì, è stata portata via, e un uomo che cercava di andarle incontro, di aiutarla, è stato picchiato da un agente. Questo video lo potete trovare facilmente su Twitter, su Facebook, perché è stato postato da una emittente internazionale. Quindi la situazione è tesissima ancora, Valentina. Che cosa si prospetta per domani? Cioè, hai avuto modo di capire se le cose potrebbero... Allora, questa notte passa così, un'altra notte per terra per queste persone, che sono circa 2000 le persone che sono accampate dentro e fuori la stazione, proprio del bar, il Barostera, la parte davanti alla stazione Keleti Paliozar. quindi la notte probabilmente passerà così, speriamo non ci siano scontri perché la tensione è molto alta. Devo dire, queste persone sono molto brave, perché la frustrazione, la stanchezza potrebbero portare a momenti difficili, no? Invece per il momento riescono a contenersi, calci, insomma, pacifico, e tutte queste manifestazioni sono tutte per il momento veramente pacifiche. Quello che potrebbe succedere è che domani il governo prenda un'altra decisione e lasci che queste persone vadano fuori dai confini. Molti con cui ho parlato stasera mi dicevano: noi non possiamo più stare qui, casomai andremo a piedi. Una famiglia, ad esempio, di Damasco, un signore Abdel, che è medico chirurgo a Damasco, la moglie fa la dentista, ha 50 anni, e mi diceva: io qui non posso vivere con questo degrado, io ho i soldi in tasca, ho il biglietto per Monaco, ma non posso andare, non posso, vorrei comprare un biglietto aereo, ma non mi fanno andare perché a Damasco mi hanno preso i documenti, io non ho più i documenti. Perché un'altra, dicevamo che la classe, in buona parte classe dirigente, classe media e medio alta, anche che sta media, svuotando la Siria. Infatti in inglese si parla molto facilmente con loro, sono tanti studenti. Sì, no, ma infatti vorrei far sentire, se ce l'abbiamo, anche un audio, questa è un'immagine anche che anche questa ha fatto il giro del mondo, di un ragazzino che avrà al massimo 10-12 anni, siriano, e intervistato lì alla stazione appunto di Budapest, che gli hanno chiesto: insomma, ma qual è il tuo messaggio? E lui, con una semplicità e con un inglese abbastanza impeccabile, insomma, spiega semplicemente che cosa vorrebbe. Sentiamolo. What's your message then? My message, please help the Syrian. The Syrian need help now. You just stop the war, and we don't want to go to Europe. Just stop the war in Syria. Just that. You just stop the war in Syria. Cioè chiede: se voi fermate la guerra in Siria, noi non abbiamo più bisogno di venire e di scappare. Valentina Furlanetto, io ti ringrazio per il momento. Adesso invece cerchiamo di capire, ciao Valentina, come è andato oggi l'incontro tra il presidente della Commissione Juncker e Orban. Europa 24. E lo facciamo con Beda Romano, che ha seguito, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, ha seguito l'incontro che si è tenuto oggi con il presidente ungherese Orban, che mi pare, insomma, non so quanto si sia ammorbidito. Beda, ciao, perché ha detto: il problema dei migranti non è nostro, è della Germania. Vero Beda? Ah, è evidente, con questa visita di Viktor Orban, che è il primo ministro ungherese, qui a Bruxelles, dove ha incontrato il presidente delle tre istituzioni europee, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, è stata una giornata di incontri, ma soprattutto di tensioni, perché l'Ungheria è in una posizione estremamente controversa rispetto agli altri grandi paesi dell'Unione, in particolare la Germania, ma non solo, ed è in posizione controversa anche rispetto alle istituzioni europee. L'Ungheria, da un lato, sta costruendo un muro al confine con la Serbia, muro che ancora oggi è stato criticato dalla Commissione. Ma a parte questo, l'Ungheria sta criticando non poco la posizione della Germania su due aspetti. Il primo aspetto è l'idea di quote di ricollocazione di rifugiati che debbano essere vincolanti, obbligatorie. E questo l'Ungheria non lo vuole, e oggi Orban lo ha confermato. Il secondo aspetto è una decisione della Germania di alcuni giorni fa di sospendere il principio di Dublino, in altre parole il principio secondo il quale il richiedente l'asilo deve fare richiesta nel paese di primo sbarco. Questa scelta è stata presa dalla Germania perché doveva in un modo o nell'altro rispondere alle pressioni di flussi migratori che arrivavano direttamente nella Repubblica Federale. Allora, la tesi dell'Ungheria è che questa scelta della Germania sta attirando nuovi immigrati clandestini provenienti dal Medio Oriente e che stanno ammassandosi alla frontiera con l'Ungheria. Allora, su questi due aspetti è evidente il contrasto, la divergenza di vedute tra l'Ungheria e i principali partner europei. Grazie, vedremo appunto quali novità ci saranno nei prossimi giorni, e soprattutto adesso che ci avviciniamo al vertice straordinario europeo del 14 settembre sull'immigrazione. Intanto queste sono le posizioni, questa è la posizione dell'Ungheria. Grazie Beda Romano, ciao Beda. A presto. Europa 24. in collaborazione con Euronet Plus. Scrive Antonio da Bologna al 349-238-6666. Personalmente credo che se le persone hanno bisogno di vedere le foto di un bambino morto per commuoversi o per avere empatia, siamo di fronte a una società di anaffettivi materialisti. Dovrebbe bastare leggere o ascoltare la notizia per immedesimarsi. Tutto il resto è apparato voyeuristico da società dello spettacolo. Sulla pagina Facebook Matte scrive: non si tratta né di discutere né di scuotere le coscienze, che dovrebbero scuotersi nei contenuti, né non nelle facili immagini, né di ledere la dignità del piccolo, che di fatto è lesa. Il punto è che il culto del l'immagine, per come è stata scattata, per la sua composizione, per il suo utilizzo, è profondamente lesivo della dignità di tutti. Fabio scrive: sì, come no, il bambino morto ha interpretato benissimo la parte, aveva anche la magliettina rossa, schindleriana memoria. Nessuno ricorda che le sue disgrazie sono iniziate quando i nostri governi hanno sostenuto le rivolte contro Assad. Umberto: secondo qualcuno gli immigrati che arrivano sorridono e si fanno il selfie, queste foto almeno danno la prova del contrario e spero che servano a pulire un po' di coscienze. Salvini in primis. E poi molti altri che cercherò di leggere dopo. Intanto però c'è il professor Francesco Cherubini, che devo assolutamente interpellare. Professore, grazie di essere qui a Effetto Notte. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Docente di diritto dell'Unione Europea, Organizzazione Internazionale e diritti umani alla LUISS di Roma. A proposito di diritti umani, professore, lei che cosa pensa di questa immagine, dell'opportunità o meno di pubblicarla? Ma l'immagine è abbastanza forte, ma è l'ennesima, nel senso che non è l'unica che evoca, l'unica negli ultimi anni, violazioni piuttosto palesi, gravi, di diritti fondamentali di questi individui che appunto cercano di non solo trovare una sorte, per così dire, migliore, ma anche di sfuggire ad una sorte, insomma, direi pessima, sotto quel profilo della tutela dei diritti fondamentali nei loro paesi di origine, vedi Siria, dove imperversano guerre, ma anche la Libia naturalmente, per non parlare dell'Africa subsahariana. Professore, a proposito di adesso c'è l'ONU che dice: tutti abbiamo visto l'orribile foto del bimbo siriano morto sulla costa turca, questo deve attirare l'attenzione del mondo intero sulla crisi di rifugiati e dei migranti, bisogna trovare una soluzione politica in quei paesi. E poi c'è anche il Fondo Monetario Internazionale che chiede di intervenire rapidamente, sta monitorando, leggevo, la situazione per valutarne l'impatto, probabilmente economico, un po' cinicamente per certi versi. E poi c'è questa novità della Gran Bretagna che dice: accoglieremo, almeno è sempre il giornale Guardian che lo dice, migliaia di rifugiati siriani. Tutti dicono bisogna fare, bisogna fare. Adesso nel frattempo c'è questo asse, ha sentito, tra la Germania e la Francia, che hanno trovato un accordo, almeno probabilmente una proposta che porteranno il 14 settembre al vertice straordinario europeo sull'immigrazione, di stabilire delle quote obbligatorie a un certo punto, e i paesi che vorranno astenersi dall'accogliere dei profughi dovranno però pagare, insomma, saranno sanzionati in questo senso, ci metteranno del denaro. Che cosa ne pensi di questa possibile misura, non soluzione? Ma soluzione? Io credo che queste misure, che poi in realtà sono almeno in parte contenute anche nell'agenda europea sulle migrazioni che era stata pubblicata dalla Commissione ormai qualche mese fa, siano misure che non risolvono il problema alla radice. Il problema alla radice si risolve operando in due direzioni. La prima è quella di cercare di stabilizzare, magari evitando di buttare sempre bombe, i paesi da cui questi profughi arrivano, e in secondo luogo è quella di dotare l'Unione Europea, e qui però occorrerebbe una scelta di grande coraggio da parte di chi rappresenta questi stati, in primo luogo naturalmente quelli che pesano politicamente di più, quindi Francia, Germania, Italia, ma anche Gran Bretagna. È quella, dicevo, di dotare l'Unione Europea di strumenti molto, ma molto più incisivi, che attualmente l'Unione Europea non ha. E quindi lei che come ritiene che a un certo punto si possa imboccare la strada giusta, e se è possibile, secondo lei, a questo allora, punto, vista la situazione in Europa? Una soluzione che mi rendo conto sia abbastanza drastica, poi in questo contesto non facilmente percorribile, però sotto il profilo tecnico e giuridico è, dal mio punto di vista, certamente la migliore, è quella di operare una revisione dei trattati, perché in questo momento le competenze dell'Unione Europea in materia di immigrazione ed asilo sono competenze che lasciano una enorme discrezionalità agli Stati membri, e quindi poi questo grande margine di discrezionalità finisce per distorcere l'applicazione di alcune norme in questa materia, prime fra tutte quelle contenute nel regolamento Dublino 2, nella sua ultima versione, regolamento Dublino 3. e poi la ragione per cui poi si ammassano migranti alla stazione, certo, di Budapest, si rimpallano responsabilità fra uno Stato e l'altro. E lo vedremo di giorno in giorno, insomma, come si sviluppa la situazione e come l'Europa possa essere o meno all'altezza di affrontarla. Grazie intanto, professor Cherubini. Grazie, buonasera. Ancora pochissimi messaggi, dai tantissimi che stanno arrivando, pochissimi prima di questa pausa perché siamo già oltre il tempo. Rosanna scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte: penso che tutti debbano sapere, conoscere la disperazione di questa povera gente e sapere l'orrore della fine che fanno i più deboli. Fabiana: assolutamente contraria, la morte è una cosa seria, la cosa seria, detestabile ipocrisia quella di pubblicare un'immagine shock solo per sollevare i mi piace, tutti gli ovvi pietismi. 349-238-6666 oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Ci prendiamo questa pausa. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di nuovo insieme a me anche i vostri messaggi, le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666. Il tema di questa sera si lega a quello che è l'argomento purtroppo principale da mesi e che ancora lo resterà, quello dell'immigrazione e le tragedie dell'immigrazione, di questo bambino Aylan, bambino siriano, e l'immagine che ha fatto il giro del mondo con lui riverso su una spiaggia turca mentre con la famiglia cercava una speranza diversa in Europa, in Occidente, dovevano andare verso il Canada. E i vostri messaggi, c'è Felicita che scrive: credo sia stato opportuno pubblicare la foto del bambino siriano, è giusto che tutte le persone per bene, tra virgolette, dice, vedano cosa vuol dire negare che i profughi vadano accolti e soccorsi. Siamo fortunati noi che abbiamo potuto veder crescere i nostri figli al sicuro. Franco: quella foto è la miglior risposta a chi dice che quei barconi sono pieni di terroristi, credete che senza quella foto avrebbero fatto il minuto di silenzio a Firenze? E poi Martin dice: il problema della pubblicazione o meno è molto accessorio, se mi permetti, mi chiedo se l'Europa e i suoi funzionari pensano veramente di cavarsela così, attribuendosi a stento delle quote di profughi. Dice: tempo di una di risoluzioni per un mondo più pacifico e vivibile. Continuate sulla pagina Facebook e al 349-238-6666, mentre vi ricordo quali sono le notizie principali e poi parleremo del ritorno di Marino. L'esodo dei migranti, asse tra Germania e Francia per quote obbligatorie, per Renzi non basta commuoversi, bisogna muoversi, ancora tensione in Ungheria, intanto la Gran Bretagna annuncia che accoglierà migliaia di migranti siriani. Economia, allarme di Draghi sulla ripresa e lenta giù le stime del prodotto interno lordo nell'Eurozona, pesa l'indebolimento delle prospettive economiche cinesi. E Cina, grande parata militare di Pechino, oggi a 70 anni dalla vittoria nella seconda guerra mondiale, un messaggio di forza nei confronti degli Stati Uniti, presente alla sfilata anche Putin. Cinema alla Mostra di Venezia, applausi per il film Spotlight, che è un film denuncia sui preti pedofili della chiesa di Boston. Tra poco ci collegheremo con Venezia. Poi per il calcio, la nazionale contro Malta, che mi pare sia sempre 0-0 se non sbaglio. Sì, per il momento il risultato non cambia. Rientrato, l'avete sentito, Marino è rientrato, questa è una manifestazione che c'era oggi a Roma contro le mafie e noi abbiamo anche una testimone oculare che può confermare che effettivamente Marino si è visto a Roma, è ritornato, lo davano tutti in vacanza ormai da tempo e c'erano critiche nei suoi confronti, per carità anche un sindaco di Roma deve fare le sue vacanze, è rientrato comunque oggi ed è andato appunto a questa manifestazione. Pare che anche il Papa sia andato in un negozio in Piazza del Popolo a cambiare gli occhiali, o meglio ha detto no, la montatura no perché costa troppo, solo le lenti, forse per vedere meglio Marino, essere sicuro che fosse proprio lui. Ma noi abbiamo la nostra testimone oculare in Alessandra Schepisi da Roma, è vero Alessandra, tu l'hai visto? Ciao Alessandra. Sì, ciao Roberta, sì l'ho visto, è tornato tra urla, spintoni, fischi, scortato da 20 agenti con blindati della polizia, elicotteri che sorvolavano il cielo. Marino è arrivato a questa manifestazione alle 19, è stato un sit-in, dobbiamo dirlo, carico di tensioni, quello di questo pomeriggio a Roma, piazza San Giovanni Bosco, la stessa piazza, lo ricordiamo, che ospitò i funerali show del boss Vittorio Casamonica, quella cerimonia funerale alcune perché indignò tanto i cittadini di Roma e le cui immagini fecero il giro del mondo. Quella di oggi, appunto, la manifestazione voluta fortemente dal commissario straordinario romano del PD Matteo Orfini, risposta appunto a quanto accaduto il 20 agosto, nella giornata di oggi in cui ricorreva l'uccisione del generale Carlo Alberto dalla Chiesa per mano della mafia. E oggi appunto Marino si è fatto vedere, un ritorno appunto avvenuto prima del suo arrivo. C'erano già stati dei momenti di tensione tra militanti PD ed esponenti della carovana delle periferie, che hanno anche istato una gigantografia con la famosa foto della cena tra Le Manno, il ministro Poletti, Buzzi e Luciano Casamonica. Poi sono stati allontanati dalle forze dell'ordine. È arrivato Marino, che ha rilasciato solo una brevissima dichiarazione. Ha detto: la presenza delle persone qui dimostra che Roma è una città antifascista, antinazista e antimafia. Abbiamo cacciato i fascisti e i nazisti, ora cacceremo anche la mafia. Però qualcuno l'ha sostenuto, ci sono stati anche dei militanti del PD che gli hanno regalato dei fiori, appunto, alcuni che lo sostenevano. Quanti erano in proporzione, Alessandra, tu che eri lì? Quanti quelli contestavano e quelli che sei riuscito a capire le proporzioni? Ma la piazza, diciamo che era spaccata, c'erano anche tanti cittadini che comunque erano venuti lì per testimoniare, i cittadini del quartiere volevano lanciare un messaggio: noi siamo un quartiere pulito, se vogliamo la difesa della legalità, insomma non dovete pensare che il nostro quartiere o Roma comunque sia tutta mafiosa, anche se la mafia esiste. Più o meno possiamo dire sì che la piazza era sicuramente spaccata. Bene, allora così è stato piuttosto movimentato questo rientro del sindaco Marino. Importante era ovviamente questo sit-in contro le mafie, come diceva Alessandra Schepisi, perché i cittadini vogliono proprio rivendicare con orgoglio e con dignità che naturalmente buona parte di Roma è pulita, nonostante le tante inchieste, le cose che sentiamo dalla cronaca. Capiremo nei prossimi giorni come prosegue. Domani incontra Gabrielli, no, Marino, il prefetto? Sì, domani ci sono nell'agenda di Marino due importanti appuntamenti: un incontro con il prefetto Gabrielli, il primo incontro dopo che il governo ha dato l'incarico appunto a Gabrielli di affiancarlo sul giubileo, e poi nel pomeriggio c'è una riunione a Palazzo Chigi sul giubileo. Oggi comunque Marino aveva già avuto la prima riunione della giunta, insomma già una fitta agenda per il sindaco dopo 19 giorni di ferie. E beh, doveva pensare che si accumulasse un po' tutto. Grazie Alessandra Schepisi da Roma, ciao Alessandra. Sandra. Ciao Roberta, ciao. Di abilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccole qui molto brevemente le notizie principali. Ovviamente siamo sempre partiti dalle questioni che riguardano i vari capitoli dell'emergenza immigrazione, con questo asse Merkel-Hollande per definire delle quote obbligatorie per tutti gli stati dell'Unione Europea, pena altrimenti delle sanzioni a chi rifiuta. E poi il caos sempre alla stazione principale di Budapest, ci siamo collegati, abbiamo sentito che continua questo assalto seppur pacifico dei migranti ai treni che sono bloccati in stazione e non gli permettono insomma di arrivare verso l'Austria, verso la Germania. L'allarme di Draghi sulla ripresa che diventa lenta nell'eurozona, e poi anche la parata della Cina che mostra i muscoli, questa grande parata militare a 70 anni dalla vittoria nella seconda guerra mondiale, c'era presente anche Putin. Del rientro di Marino, rientro blindato si può dire dalle ferie, abbiamo appena parlato, e tra pochi istanti ci collegheremo con Venezia. Venezia, dove c'è Cristina Battocletti, giornalista del Sole 24 Ore, scrittrice, è a Venezia e si collega un pochino la questione immigrazione che abbiamo trattato finora anche con Venezia. Perché, ciao Cristina. Buonasera a tutti. Ciao, so che la madrina del festival, anche in una intervista che poi ha suscitato un po' di polemiche, ha detto: io da piccola sognavo di fare la diplomatica e sono per battermi perché ci sia l'accoglienza solidale, no? Suscitano un po' di polemiche, sì, questa cosa. Sì, l'ha detto, c'è stata una polemica direi abbastanza sciocca da parte di un giornale della destra cosiddetta italiana, sciocca non nel senso del giornale di destra, nel senso che chiunque dica bisogna accogliere gli immigrati è benemerito, anche un bambino di 5 anni, non bisogna fare diciamo del... del gioco per il fatto che forse che lei è figlia di immigrato, suo padre è un egiziano, sua madre è un italiano, insomma. Infatti lo diceva. Qualcosa a favore. Dice, no, sono anch'io una migrante a modo mio. Senti, invece per andare sui film, allora ieri grande apertura con Everest, invece oggi gli applausi li ha presi un film di denuncia sui preti pedofili, Spotlight. Esatto, è un film che è del regista di True Detective, è un film abbastanza televisivo, nel senso che è molto godibile, si segue benissimo, ha preso gli applausi proprio perché racconta questa vicenda scabrosissima dei preti pedofili con le indagini, scritta in buon carattere giornalistico. E poi ci sono stati applausi anche per il film della unica regista donna in gara. Tanto per cambiare, unica regista. Ce ne sono davvero poche di solito nelle competizioni. Comunque, questo film è buono, molto buono, ha una miscellanea di humor, di tristezza, di melanconia. Si intitola Looking for Grace, di Sue Brooks. Esatto. For Grace, Grace è una ragazzina che scappa di casa, un adolescente, per andare a un concerto. Non dice nulla, ma scattano le ricerche da parte del padre, della madre e di un vecchio detective. Sono dialoghi abbastanza surreali, paradossali. Alla fine, diciamo, le cose andranno a finire bene, però si scoperchiano tante questioni familiari, come un vaso di Pandora. A me ha ricordato per esempio Segreti e Bugie, ha uno humor molto inglese, mi è piaciuto molto. Senti, qualcos'altro degno di nota lì nella seconda giornata, a parte Natasha Kinski che ha innaffiato di vino, ho sentito un giornalista indignata, forse per l'articolo che ho scritto. Sì, io c'ero in quel momento, non ho visto la scena, devo dire che il giornalista è rimasto abbastanza inumidito, tranquillo. Diciamo. Beh, sai, direi che non è una reazione ortodossa, io non l'avrei fatta, certo avrà avuto le sue ragioni, però comunque non l'avrei fatto. Beh, un gesto del genere. Sei ragazza molto molto educata. So che c'è anche un docufilm su Vasco Rossi, qualcosa che ti ha colpito a parte questi film principali? Questi erano in concorso, tra l'altro. No, Spotlight non è in concorso, no? No, Spotlight è fuori concorso, e bene ha fatto perché non ha quella ricercatezza di stile che gli è propria. Dunque Vasco arriverà molto più tardi, il decalogo, attorno al 10, mentre oggi è stato presentato, l'ho visto da pochissimo, il film di Sakurov, che ha vinto recentemente il Festival di Venezia con Faust, l'ultima volta che è venuto, devo dire non era da concorso, un documentario commissionato dal Louvre, lui ha fatto tutto il meglio per raccontare il Louvre in maniera da grande regista qual è, però diciamo l'ombra del committente si sente fortemente, io l'avrei messo fuori concorso sinceramente, non credo che sia stato lui a premere per entrare in gara. Mi è andata bene, poi insomma così di fortuna. Grazie Cristina Batocletti e buona visione. Grazie a voi. Ciao Cristina. A presto. Ciao. E adesso abbiamo un altro tipo di visione, non è solo quella di Dario Ricci che ho davanti a me, per carità. Che non è male, insomma, non è male. Un bel ragazzo. Dice, per se stesso, diciamo. Io non mi devo pronunciare. Però c'è anche questo schermo della partita in diretta. Sì, no, a proposito di visione, ti faccio notare una cosa. Diamo tanto il risultato come fare. Le magliette, so che vuoi fare una cosa, sei un po' stilista tu, no? Comunque, allora, siamo 0-0 Italia-Malta, appena riniziato il secondo nulla tempo. Nulla è cambiato. E nulla è cambiato, ai noi, perché con Malta si deve vincere. Malta è forte come nazionale. No, c'ha un punto in 6 partite, quindi allora, è l'ultima, quindi sarebbe proprio il caso. Che entro la fine della scontato, partita. Però bisogna farlo. Forse stanno aspettando però, per il colpo finale. Sì. Siccome appunto manca il sale e il pepe, che sono i gol, ti faccio notare la maglietta dell'Italia, perché è nuova, la nuova maglietta da trasferta, che però esordisce oggi. Vedi, bianca, bande azzurre, tricolore davanti, stemmino della Figi. Non è male, vero? Non è male. Infatti, anche se la maglietta azzurra, tutta azzurra. Fascino, so, però, sì, ma però, perché da trasferta? Quando si trasferisce deve avere per forza la maglietta, gli altri ce l'hanno rossa, quindi non è che si. No, ma a parte giochiamo in casa oggi. Però è chiaro che di solito le squadre calcio hanno due maglie. Adesso l'ABC. No, vedo che siamo in chiusura. Ma quando uno suda è chiaro che si deve mettere la maglia. Recuperare tutta la storia del calcio in 5 minuti è un po' complicato. Ne abbiamo quasi due, ma un lusso. Comunque, no, interessante notare che finora nel nostro girone, nel gruppo H, non c'è stato nessun gol in 3 partite, perché Azerbaigian-Croazia è finita 0-0. 0-0. Bulgaria e Norvegia sono sullo 0-0, noi sullo 0-0, però è chiaro che la figura più brutta la facciamo noi, perché certo, giochiamo contro i più deboli. Ma anche perché mi sembra un girone non di squadre pazzesche, o no? Forse da parte della Norvegia, possibile. Vedi, è già individuato. Vedi, tu pensi, tu mi sottovaluti, e invece questa Roberta Giordano che studia di notte. No, percepisco, intuisco, proprio un'intuitiva. In effetti, comunque la Croazia è chiaramente squadra di grande tradizione, però è stata anche penalizzata di un punto per i ripetuti sfoghi razzisti della sua tifoseria. È in testa al girone, appunto, però con un solo punto sull'Italia, poi c'è la Norvegia a 10, la Bulgaria a 8, e domenica abbiamo detto che giochiamo contro i bulgari a Palermo, Azerbaigian a 4 e Malta a 1. Quindi sì, sicuramente sono avversarie che devono essere sicuramente al nostro livello, visto che poi si qualificano le prime due. Quindi insomma incrociamo le dita. A che punto siamo? Quanto manca? Siamo al 50esimo, quindi ancora mancherebbe, però non riusciamo proprio. Una ventina di minuti mancano. No, ancora durano 90 minuti. 90 minuti, scusami, è vero. È la matematica. Però adesso ne parleremo con Blatter o col suo successore. Per cercare di... c'ho tante cose in mente, sai di quante notizie ho parlato prima di dialogare con te. Ecco, vediamo un po' questa incursione di Eder, niente, difesa maltese impenetrabile. Niente, impenetrabile, beh, insomma, qualcosina di più si potrebbe fare. Grazie Dario Ricci, grazie davvero per questo intervento. Ciao Dario, ci sentiamo nei prossimi giorni, ovviamente sempre con gli aggiornamenti, anche se domenica l'altra partita della nazionale. Prima di lasciarci brevemente ancora qualcuno dei vostri tantissimi messaggi, la pagina Facebook di Effetto Notte, Floriano ha spiegato molto bene in un editoriale, il direttore della Stampa calabrese ha ragione a pubblicare queste foto, servirà a smuovere le coscienze. E poi Maria Rosaria fa sapere a tutti questa foto noi quanto facciamo schifo, governi e popoli assieme. Michele, purtroppo le coscienze saranno scosse fino a sabato, al massimo domenica, e poi sarà il tempo di nuove notizie. Potrebbe non avere torto, purtroppo, Michele. Intanto ci fermiamo qui, poi vi riaggiorno alle 22.